9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e in questo giovedì 15 entriamo in trasmissione alle 9, 12 e 30 secondi, quindi le 9 in punto è sempre più in ritardo. Dovrò essere brevissimo, avete già sentito il servizio del giornale radio dedicato al tema. Approfittiamo del fatto che oggi inizia questa consultazione del governo con le 25 professioni regolamentate dai periti, architetti, commercialisti, e oggi ci occupiamo del problema degli avvocati. Da alcune settimane, in relazione alla riforma della professione forense che giace in Senato, questo tema si è incardinato inoltre nell'iniziativa assunta dal governo, in particolare confermata dal ministro della giustizia Alfano. Alfano ha dichiarato: intendiamo fare punto e a capo rispetto ai temi introdotti, alle novità introdotte con le liberalizzazioni della Bersani, che a giudizio del governo non hanno ottenuto l'effetto di tutelare il cittadino che si rivolge all'avvocato, come a queste libere professioni. Non lo hanno tutelato, dice, né in termini di concorrenza e basse tariffe, quindi il punto è introdurre di nuovo le tariffe minime. Non lo hanno tutelato nelle norme che aprivano alla libera concorrenza anche in termini pubblicitari tra studi professionali, e quindi il governo intende confrontarsi con chi rappresenta l'avvocatura e chi rappresenta le altre libere professioni, con l'obiettivo di uno statuto generale entro 3 anni, entro il 2013, e poi il sì alle singole riforme professionali, di cui comunque quella dell'ordinamento forense, ripeto, è in uno stato avanzato, dopo molti decenni in cui si discute e in cui ogni volta ci sono molte polemiche, anche per il numero molto elevato di avvocati in Parlamento che di solito, insomma, fanno sentire la propria voce. La novità qual è? Che nel dibattito di questi ultimi mesi un grande giornale, Corriere della Sera, quindi un quotidiano molto importante, ha per così dire sposato, ognuno interpreta come giusto la propria funzione giornalistica, come crede, ha sposato le richieste dal basso delle professioni, ma ne ha sposato, se mi consentite un po' criticamente, soprattutto la venatura di richiesta di tutele e protezioni. E ancora oggi Dario Di Vico, che è il grande animatore di questa campagna sul Corriere della Sera, con cui il Corriere della Sera torna spesso con editoriali informativi eccetera eccetera, con un nuovo articolo torna su questo tema dicendo: la crisi ha colpito duro nel mondo delle professioni, il mondo delle professioni ha scoperto che poi la concorrenza non significava certo questo Eldorado. Io ricordo che abbiamo 220.000 avvocati, che secondo i dati della Cassa Forense già nel 2008 uno su quattro non riusciva a dichiarare neanche 820 euro al mese. Polemiche su chi naturalmente poi va dagli avvocati e non si ritrova con redditi così bassi rispetto alle richieste. Il punto, tra gli altri, l'ho detto, quello delle tariffe minime, quello delle tariffe massime. C'è una sentenza della Corte Europea di Giustizia e una procedura di infrazione anche su questo. Poi ci sono molti altri temi, come numero chiuso o meno nella professione, le norme deontologiche, le sanzioni, istituire possibilità di contrattuali per gli avvocati negli studi con forme diverse, perché far finta di costare tutti i liberi professionisti quando tutta la fascia dei giovani sta negli studi a pochissimi euro, praticamente in una collocazione che è simile a quella dei dipendenti, senza avere però i diritti dei dipendenti, perché non introdurrò l'avvocato a partita IVA. Ma ci sono su questo legittime istanze e riflessioni da parte di chi poi li rappresenta, gli avvocati e le diverse associazioni, che anche per fascia di età di iscritti a volte hanno posizioni molto diverse su questi temi. Telefonateci all'800 24 00 24 per dirci la vostra esperienza, cosa avete pensato alla liberalizzazione Bersani su questo, soprattutto se siete a favore del ripristino delle tariffe minime e di forme di tutela verso gli avvocati, che anch'essi, rispetto al numero molto elevato in cui sono colpiti dalla crisi. Insomma, fateci sentire la vostra. Intanto vi presento gli ospiti di oggi. Allora, scusatemi perché ho un problema di voce che effettivamente oggi è poco presentabile. Abbiamo innanzitutto Guido Alpa, che come presidente del Consiglio Nazionale Forense tra poco andrà direttamente dal governo, e ringraziamo per essere venuto a venire prima da noi. Buongiorno presidente. Grazie, buongiorno. E poi l'avvocato Alessandro De Nicola, che abbiamo in duplice veste sia di avvocato che di animatore, insieme al suo Adam Smith Society, da un punto di vista della concorrenza del dibattito anche su questi temi. Buongiorno. buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno. E poi il professor Fabiano Schivardi, a cui chiediamo qualche considerazione in ordine agli effetti di concorrenza delle passate norme, di quelle di cui si discute. Il professor Schivardi ne scrive spesso sulla voce.info. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo dal presidente Alpa. È troppo sbagliato dire che siete alla ricerca di tutele perché la crisi ha colpito duro, oppure ci dica lei, davvero era demagogia e basta quella delle norme Bersani? Ma guarda, innanzitutto voglio precisare che la riunione che si farà tra poco al Ministero con la direzione del Ministro Alfano riguarderà le regole generali sulle professioni. Noi abbiamo però una disciplina speciale che è in corso di approvazione al Senato, poi passerà alla Camera e quindi vedremo in che modo la specialità della professione forense divergerà rispetto a quella delle altre professioni. La specialità della professione forense è collegata con l'amministrazione della giustizia, che è uno dei cardini dell'ordinamento democratico che riguarda appunto l'accesso alla giustizia, quindi non credo che si possano fare delle generalizzazioni. In secondo luogo, per quanto riguarda la riforma Bersani, le obiezioni erano innanzitutto il fatto di considerare l'attività professionale forense alla stregua di un'attività imprenditoriale, e il nostro ordinamento le due attività sono ben distinte e nessuno può imporre una unificazione nel quadro complessivo dell'ordinamento comunitario. In secondo luogo, la riforma Bersani ha prodotto da un lato una depressione dell'attività forense, perché se ne sono approfittati i grandi potentati economici e quindi le banche, le imprese di grandi dimensioni, le assicurazioni, imponendo agli avvocati dei compensi, non posso più chiamare tariffe, che erano al di sotto addirittura delle spese e di cui ovviamente sono stati tutti danneggiati, e abbiamo anche la solida preoccupazione che questa condizione abbia depresso anche la qualità dell'esercizio dell'attività professionale. E dall'altro ha introdotto il patto di quota lite, che dal nostro punto di vista, oltre a violare uno dei principi sacri della professione, cioè che il compenso deve essere adeguato, ma non si può non può essere una sorta di sfruttamento, ecco, della posizione nei confronti che ha l'avvocato nei confronti del cliente, né si deve l'avvocato, al di là dei premi possibili per una vittoria della causa, avvalere di questa disciplina per poter acquisire dei vantaggi ingiustificati. E quindi anche da questo punto di vista ovviamente questa è la reazione della categoria, è stata durissima. Oh, posso chiederle un secondo? Non è quando si dice, ma in realtà uno studio non è un'impresa da una parte, perché lo statuto, la deontologia, l'impostazione stessa della professione forense, la fede pubblica che deve dare, fa a pugni con la natura di considerare lo studio una vera impresa economica, è come se si prescindesse un pochino da come in realtà in tutti i paesi evoluti eccetera la tendenza da un segmento, diciamo da quello mediano a quello elevato degli studi, inevitabilmente ha dimostrato che è quella, in realtà è davvero un'impresa. Che cos'è che fa dire che davvero non lo è ed è giusto che non lo diventi, per così dire, soprattutto che siccome c'è un ruolo della legge non deve essere la legge a dirlo? Ma innanzitutto non è vero che l'evoluzione attuale in tutti gli ordinamenti europei sia nel senso che lei dice, perché più della metà degli ordinamenti europei riflettono l'ordinamento italiano. E soltanto in Inghilterra, dove non c'è una distinzione netta fra attività di consulenza e attività di impresa, i solicitors possono fare qualunque attività, compresa quella dei notai, ma c'è una netta distinzione anche in Inghilterra, che è quello il modello che di solito si prende in considerazione, tra chi svolge l'attività di consulenza e chi svolge l'attività difensiva. I barristers in Inghilterra sono 11.000 e una volta che hanno superato l'esame devono attendere spesso anche anni per poter acquisire la chamber, quindi l'ingresso alla chamber, e quindi essere ammessi all'esercizio. Quindi queste limitazioni sono ben precise, ben conosciute anche negli ordinamenti che si prendono a modello, qualche volta come se fossero l'emblema delle cosiddette liberalizzazioni. In secondo luogo, bisogna vedere il modo di organizzazione, nel senso noi pensiamo che l'attività professionale sia un'attività intellettuale e quindi debba mantenere le sue caratteristiche di indipendenza, di imparzialità, di autonomia, oltre che di decoro, di dignità e di competenza. E l'organizzazione dello studio può essere fatta con tranquillità attraverso l'uso di società semplici, di associazioni professionali che svolgono perfettamente la loro funzione e non è necessario ricorrere ad altri strumenti. Abbiamo una disciplina speciale che è la STP, che riguarda proprio le società tra avvocati, una disciplina che però non ha avuto fortuna, da un lato perché in Italia gli studi di dimensioni internazionali pensano di potersi organizzare secondo un'attività di impresa, tutti gli altri studi, visto che l'attività di difensiva, soprattutto difensiva, è diffusa su tutto il territorio, non richiedono gigantesche costruzioni e quindi possono essere considerate come delle medie aggregazioni. Avvocato De Nicola, le è capitato spesso, perché lei è anche poi editorialista del Sole 24 Ore, in questi anni di commentare i temi dell'apertura timida e cauta del mondo delle professioni all'idea della concorrenza? Appare a molti un passo indietro, ad altre no, ripeto, il Corriere della Sera, quello a cui stiamo assistendo. In sintesi, con la sua doppia esperienza, uomo che si batte per la concorrenza e uomo che fa libera professione di avvocato, è sbagliato forse cristallizzare in un contrasto così netto apertura al mercato o tutela nei confronti del mercato il dialogo attuale? Forse così facendo sfugge qualcosa o è giusto? Beh, guardi, noi abbiamo un esempio recente di liberalizzazione e che quindi può formare un modello di studio, che è quella della liberalizzazione della professione dei notai in Olanda, che i notai in genere sono anche più protetti degli avvocati. Da quando è stata effettuata la liberalizzazione nel 99, c'è il rapporto presentato al Parlamento, il rapporto Hammerstein, che dice che i prezzi sono diminuiti e la qualità non è peggiorata e il numero di notai è aumentato lievemente secondo le aspettative del mercato. Quindi quello che di solito viene detto, diminuisce la qualità, i notai, in questo caso gli avvocati, si impoveriscono e così via, alla prova dei fatti, quando c'è uno studio scientifico su un settore ben delimitato in un paese civile con tradizione simile al nostro, non regge la prova dei fatti. Ma se noi vediamo anche la professione dell'avvocato, i redditi degli avvocati negli ultimi 10 anni sono cresciuti dell'1,7% rispetto all'1,8% del PIL, quindi sono cresciuti più o meno come il prodotto lordo, con la differenza che avrebbero dovuto diminuire sostanzialmente, e sa perché? Perché siccome entrano tanti praticanti, cioè giovani che guadagnano poco, e quindi la percentuale di giovani sta aumentando molto rispetto agli avvocati che hanno già una loro clientela e così via, questo avrebbe dovuto diminuire la media dei guadagni, perché se prima avevo 10 giovani su 100 avvocati guadagnavano 10.000 euro all'anno, adesso ne ho 30, perché all'inizio della professione si guadagna meno per motivi comprensibili. Se il reddito medio è rimasto uguale al PIL, vuol dire che gli avvocati in questi 10 anni non se la sono cavata male. La qualità del servizio, da quando c'è la Bersani, non c'è nessuna prova statistica che sia diminuita. Non ci sono aumenti dei casi disciplinari agli ordini, non c'è nessuna prova statistica, ci sono solo sensazioni, ma non provate da niente. Quindi le tariffe, l'abolizione della tariffa minima, serve soprattutto ai giovani, perché sono i giovani avvocati che per farsi spazio possono proporre tariffe liberamente contrattate. Le tariffe minime a chi servono? Servono agli incumbent, a quelli che sono già nel mercato. Ma si dice, giro la domanda al professor Schivardi che insegna a Cagliari, all'Università di Cagliari, non l'ho detto prima, e ripeto, è collaboratore della Voce.info, ma si dice da parte di chi rappresenta poi nell'associazionismo forense, praticando queste basse tariffe, proprio i giovani avvocati che tentano di entrare nella affollatissima professione forense italiana, non ripeterò il solito luogo comune che solo a Roma e nel Lazio ci sono più avvocati che in tutta la Francia, si dice fanno venire meno la libera professione a quel minimo decoro che deve essere una delle caratteristiche di fondo della libera professione forense. Come stanno le cose dal suo punto di vista, professor Schivardi? Il punto della tariffa minima, appunto, che è una barriera all'entrata, e quindi diciamo una tariffa più bassa offerta da un avvocato giovane è probabilmente meglio di non avere nessun cliente per un avvocato giovane, perché se un giovane avvocato non può segnalare attraverso un prezzo più basso la sua disponibilità a crearsi una clientela, sarà molto più svantaggiato rispetto a uno studio avviato che in presenza appunto della possibilità di usare la leva del prezzo. E in effetti, quanto al decoro, penso sia così interessante segnalare il fatto che la riforma che giace in Senato non prevede nessun obbligo di compenso per i praticanti, cioè c'era in una prima stesura, poi questo obbligo è stato tolto, quindi diciamo anche il decoro dei praticanti dovrebbe essere importante, dovrebbe essere veramente a cuore. Fa un pochino a pugno, in effetti trovo anch'io, nella mia esperienza, voglio dire, anni fa, di che cos'era il mondo di coloro che per anni ovviamente poi devono praticare uno studio forense per avere accesso poi all'abitazione all'esame di Stato, direi che in quel caso io sarei favorevole a tipizzare le possibilità di contrattuali per gli avvocati negli studi, perché mi sembra che in realtà nella realtà avvenga poco da fare. Ora la pubblicità e poi torniamo con il presidente Alpa e soprattutto con molte telefonate. Si è scatenata una reazione anche di SMS che immaginavo e speravo, devo dire, fino a questo momento negli SMS l'ondata, siamo anche su Radio 24, presidente Alpa capisca, e per il no alle tariffe minime, ma ci sono anche avvocati che ci dicono che stiamo come sempre troppo semplificando, perché in questo modo si aiutano troppo i grandi studi e troppo i grandi interessi. Insomma, c'è la guerra di classe redistributiva anche nel mondo forense. 9.33, eccoci tornati in studio, stiamo parlando delle riforme delle professioni, la consultazione avviata oggi dal governo con le 25 professioni disciplinate e regolamentate, con relativi albi, ordini, e il problema è quello di cominciare con una riflessione sulla riforma più avanzata in Senato, quella della professione forense. Iniziamo a sentire alcune telefonate e cominciamo con Luigi da Bologna. Prego Luigi. Sì, buongiorno. Io sono un commercialista, comunque questa discussione riguarda tutti i liberi professionisti. Volevo esprimere il mio parere, che è questo. Secondo me ci si arrocca su delle posizioni ormai anacronistiche, volendo ripristinare le tariffe minime. Il mondo va veloce, va avanti, ha bisogno di contrattazioni. Chi ha potenzialità si esprimerà su tariffe, su un prezzo orario, prezzo pratica più alti, chi ha potenzialità diverse si esprimerà su prezzi onorari più bassi, è così. Anche in Svizzera per lavoro ho avuto occasione di vedere che vanno a tariffe, non a tariffe ma a costi orari diversi da studio a studio a seconda della potenzialità che è in grado di esprimere uno studio piuttosto che un altro. Bene, quindi Luigi mi pare di capire che lei è più pro concorrenziale, insomma, per così dire. Sentiamo Giorgio da Foggia. Sì, buongiorno, anche io chiaramente sono a favore della concorrenza. Io come esperienza posso dire che il mio lavoro, grazie a Bersani, ha la possibilità di sottoscrivere con delle società bancarie, in questo caso, dei contratti con dei prezzi concorrenziali. Ho aumentato il mio lavoro in una maniera pazzesca, diciamo centuplicato, quindi se dovessero reintrodurre i minimi tariffari io sarei spacciato, perché tenga presente che determinati tipi di incarichi erano appannaggio da sempre di avvocati che si trasmettevano di padre in figlio il cliente, almeno nella nostra realtà foggiana, e quindi adesso invece io sono entrato in un mercato legale che a me non mi sarebbe mai stato possibile arrivare. Questo senza diminuire la qualità, anzi è aumentata la qualità, è aumentata la possibilità di dar lavoro a tanti ragazzi che cominciano ad essere retribuiti dal sottoscritto, perché qui di solito non vengono retribuiti i praticanti, io stesso non sono stato mai retribuito, e quindi diciamo che c'è un'evoluzione. Poi volevo dire sulle società, ho sentito prima un intervento che è contrario al sistema delle società. Le società, io sono 20 anni, ho una moglie che non è italiana, sono 20 anni che vado in Belgio, in Olanda, anche lì da 20 anni a questa parte c'è stata una trasformazione, vedo i suffissi agli studi legali e i commercialisti NBBA, che è praticamente la nostra SRL. Quindi secondo me io sono addirittura a favore anche del socio finanziatore, magari regolamentato in una minima parte. Io sono per un libero mercato vero, concorrenziale. Bene. Perché questo farà crescere la nazione. La nostra nazione è arroccata su posizioni veramente troppo antiquate. Grazie Giorgio Foggia. Sentiamo ancora un paio, devo chiedere a tutti un po' più di brevità. Innanzitutto Aldo da Roma, prego. Sì, buongiorno, saluto il Presidente, sono un avvocato e confermo, guardi, il discorso che ha fatto chi mi ha preceduto. In effetti credo, io frequento spesso i forum degli avvocati qui a Roma e spesso vedo che ci arrochiamo su posizioni conservatrici di pura conservazione. E non è vero che con le tariffe minime si aumenta il livello professionale, perché il sistema, come sa il nostro Presidente, che è stato introdotto della qualificazione professionale a punti, mi passi il termine, è vergognoso, c'è il mercato dei punti. Vabbè, perché lei dice questi crediti, si chiamano così, insomma, vengono comprati e venduti senza che poi corrispondano a formazione vera. Guardi, c'è una libreria di fronte a un tribunale, al tribunale di Latina, dove si dice punti via internet tot a punto. Bene, io ringrazio anche Aldo da Roma e mi sembra più che corretto restituire la parola al Presidente Alpa, che poi tra un po' ci deve lasciare, ma soprattutto perché qui noi abbiamo raccolto opinioni che sono tutte, come si vede, da una parte, è un caso o probabilmente rispecchia il pubblico di Radio 24. Io ho anche sms di imprenditori che dicono voglio anch'io le tariffe minime per i miei semilavorati, allora cioè, c'è una posizione, insomma, ha sentito anche poi quello che ha detto il Presidente di Confindustria a Parma, vi ha invitato a riflettere bene prima di chiusure corporative, però naturalmente è inutile, non siamo noi che timbriamo, quindi io voglio sentire anche la posizione di chi come lei ha la responsabilità poi della rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense e con ogni probabilità adesso ci spiegherà come queste sono semplificazioni un po' sbagliate. Prego Alpa. Ma intanto tutta una precisazione, non si può fare un confronto fra il mercato olandese notarile e quello italiano degli avvocati, perché in Italia la professione notarile si accede per concorso, i notai sono un numero chiuso, sono 4.500 e ci sono 900 posti scoperti, quindi una situazione anche dal punto di vista economico molto diversa. È un mercato chiuso, il nostro mercato aperto, 230.000 avvocati, ogni anno entrano 15.000 nuovi avvocati, non si può dire che manchi la concorrenza, così come non si può dire che non si può fare un raffronto fra l'eliminazione delle tariffe e l'aumento del PIL, semplicemente perché è aumentato il contenzioso e quindi questo è un fatto che ha aumentato il reddito, anche se più modesto, degli avvocati italiani. Bisogna anche fare una precisazione per quanto riguarda i confronti con gli altri con i modelli stranieri. È vero che a Roma ci sono 26.000 iscritti all'ordine, 26.000 avvocati, e in tutto il Lazio probabilmente equivalgono il numero degli avvocati equivalgono a quelli francesi, che sono circa 40.000. Ma è anche vero che dinanzi alla Corte di Cassazione in Francia soltanto 58 studi possono fare attività professionali, 58, quindi è un monopolio, mentre in Italia gli avvocati cassazionisti sono 46.000, quindi non si possono fare delle, diciamo così, superficiali affronti fra le diverse situazioni. Tutti gli interventi che ho sentito sono interventi che sono pregiudizialmente ideologici. Se facciamo un discorso di carattere ideologico, allora non mi interessa. No, è proprio quello che vogliamo evitare, per carità, Presidente, se no non l'avremmo chiamata. Quindi quello che voglio dire è, sa anche il fatto che ci sia il commercio dei crediti, ma lo denuncino. Il Consiglio Nazionale Forense ha questa funzione di attribuire i crediti sul livello nazionale, i singoli ordini a livello locale, e se ci sono degli ordini che non hanno funzionato bene lo denuncino e noi provvederemo. Ecco, questo anche questo fatto del mercato dei crediti è una così una precisazione che è del tutto ultronea rispetto a quello che stavamo discutendo. Cioè lei dice, se quella è una buona norma che serve a indirizzare la qualità verso l'alto della professione, poi le buone non norme c'è chi le contraddice. Depresso se poi ci sono degli illeciti, ecco questo, cioè non se il fatto che ci sia un illecito non significa che si debba abolire la disciplina dei crediti, che tra l'altro riguarda tutte le professioni in Italia e tutte le professioni di avvocato in tutta Europa, quindi saremo l'unico Stato nel quale non sarebbe introdotto un mezzo di controllo della qualificazione professionale, quindi quello è un discorso che francamente non vorrei aprire. Per quanto riguarda invece la barriera all'entrata, anche questo non credo che sia corretto, perché noi ai giovani dobbiamo assicurare una attività professionale che sia fatta in modo qualitativamente utile e sia decorosamente retribuita, quindi dire spetta ai giovani fare lavoro nero non va bene. Noi il Consiglio Nazionale Forense aveva anche proposto una retribuzione per i praticanti ed è la Commissione del Senato che ha soppresso la norma, non era certo questa la nostra intenzione, l'intenzione di penalizzare i giovani praticanti. Professor Schivardi, spesso ci si litiga un pochino tra economisti di diverso orientamento quando si tratta di fare delle funzioni che formalizzino gli effetti a cascata di professioni più o meno aperte alla concorrenza, quanto poi all'effetto sull'altro, cioè sul prodotto nazionale, sulla crescita economica. Dal suo punto di vista, siccome specificamente spesso le capita di approfondire temi come questi, quanto pesa l'impostazione delle libere professioni in Italia, gli ordini, gli albi e anche questa richiesta di maggior tutela che vibra nelle parole del presidente Alpa rispetto alle determinanti poi della crescita pur rallentata del nostro paese? Ma credo pesi parecchio, nel senso ci sono due canali attraverso cui questo pesa. Il primo è che comunque un assetto meno competitivo del settore delle professioni si riversa poi sugli utenti di queste professioni. I professionisti offrono servizi alle imprese, ovviamente le imprese dovendo pagare costi più alti, perché diciamo su questo vorrei che non ci fosse ambiguità. Tariffe minime, tutti gli studi che hanno provato ad analizzare questa cosa portano a costi più alti per gli utenti, cioè quindi questo discorso che le tariffe minime abbiano avvantaggiato i forti, io non so chi siano i forti, le banche, le assicurazioni, non lo so. Per me forse i forti sono anche gli studi d'avvocati avviati e i deboli magari i consumatori e le persone che devono rivolgersi a queste persone. Comunque tariffe minime portano a costi più alti e questo ovviamente è un costo per l'impresa, come è un costo più alto, non so come è l'energia, lo stesso vale per le tariffe minime. C'è poi un discorso a cascata diciamo orizzontale, nel senso che nel momento in cui gli avvocati spingono per una riforma, come per una controriforma, perché qui stiamo parlando di reintrodurre restrizioni alla condotta, cioè tariffe minime, vietare il patto di quota lite, limitare la possibilità di far pubblicità, restringere l'entrata, ampliare gli ambiti in cui gli avvocati hanno l'esclusiva, quindi certo tipo di servizi che adesso si possono fare attraverso patronati o associazioni di categoria, quando la riforma passerà dovranno necessariamente essere appannaggio degli avvocati. Questo tipo di riforme ovviamente diciamo le altre categorie dicono va bene, l'avvocatura avrà delle caratteristiche particolari, però anche noi non so commercialisti o tutte le altre 25, ma adesso ho letto anche giustamente anche non so chi offre servizi informatici, dice noi chi siamo, fino appunto ad arrivare alla manifattura. E se si procede lungo questa clina veramente è pericoloso, perché la storia è piena di esempi di paesi che in momenti di ristagno hanno risposto introducendo paletti di ogni tipo e questo ha inevitabilmente condotto verso il declino. E mi sembra che questo paese di tutto abbia bisogno fuorché di mettere paletti alla possibilità di fare attività economica. Anche il vostro programma di ieri lo ribadiva e mi sembra che l'apertura ai giovani, la possibilità di... No, mi trovavo molto interessante l'intervento di Giorgio da Foggia che parlava di clienti trasmessi di padre in figlio che grazie alla Bersani siano stati rimessi sul mercato e quindi si è vitalizzato un mercato che prima era assolutamente chiuso. Questa mi sembra la questione fondamentale, di questo stiamo parlando e mi sembra che la dato dalla proposta di riforma dell'attività forense vada in direzione assolutamente opposta e a mio avviso molto costosa per il paese. Naturalmente, come insegna la scuola di public choice, chi esercita pro tempore la rappresentanza più rilevante nei diversi organi di rilievo della pubblica amministrazione e della politica tende giustamente a prendere fette di autotutela più ampie, e qui siamo in presenza di un noto problema, cioè di quanto il numero di avvocati legittimamente elevato in Parlamento sia in grado poi di trasferire richieste di autotutela della professione con particolare efficacia rispetto a tutte le altre professioni nell'ordinamento italiano. Beh, una vera forbice di reazioni SMS di oggi. C'è chi è disperato facendo l'avvocato all'ingresso nella professione, perché dicono oramai i clienti con la Bersani autodichiarano loro quello che sono disposti a pagare, l'alternativa è non essere pagati, e naturalmente non si viene pagati dallo studio in cui si esercita all'inizio per lunghi anni, quindi sì, sarà vera la concorrenza, ma qui Carmina non dan panem, dove Carmina naturalmente non sono le leggi della concorrenza ma è un traslato poetico. Altri invece che protestano perché dicono: possibile che la Bersani sulle professioni vi piaccia così tanto, quando era un'idea del tutto mercatistica di ciò che mercatistico non è, visto che esistono gli albi, gli ordini, le norme deontologiche. Qualche eco tramontiana in questa accusa che viene al sottoscritto. Molte voci invece di clienti che non sono favorevoli a questi queste nuove caratteristiche che ci sono state illustrate dal presidente Guido Alpa. Sentiamo la testimonianza di Cristiano Cominotto, che è un avvocato promotore del primo studio legale su strada in Italia, quindi insomma concorrenza diretta a chi appare cliente a costi insomma non molto elevati. Avvocato Cominotto, allora, lei che dice rispetto ai temi di cui stiamo parlando e a queste richieste di tornare indietro rispetto alla liberalizzazione? Ma guardi, io dico che a mio parere non bisogna fare delle bandiere di questi argomenti, ovvero il discorso del ristabilire il minimi tariffario o meno, francamente mi sembra un discorso secondario rispetto agli aspetti che soffre in questo momento la nostra professione. Io credo che dobbiamo guardare all'estero. In Inghilterra in questo momento stanno discutendo di quotare in borsa gli studi legali, stanno discutendo l'accesso dei capitali delle società negli studi legali, iniziative che sicuramente sono discutibili, iniziative che forse non saranno giuste, però insomma non dimentichiamo che l'Inghilterra è in Europa, e quindi secondo me, ecco, noi soffriamo un po' in questo senso di provincialismo, cerchiamo in qualche modo di restaurare delle norme che ricorrono al 1930, cioè discutendo se gli studi legali ancora possono avere nomi di fantasia o devono avere il nome del titolare, quando l'Europa sta andando in una direzione ben diversa. Dopodiché il discorso delle tariffe minime, ripeto, secondo me è un discorso secondario, perché io credo che i clienti non si siano mai lamentati del fatto che l'avvocato gli abbia applicato delle tariffe minime, perché di fatto le tariffe minime degli avvocati sono già di per sé stesse basse, per cui non credo che sia un problema tariffario, credo che sia un problema di rivedere la nostra professione nel suo complesso. E ci sono altre misure, se mi permette, poi concludo, per esempio quelle del patto di quota lite e quelle del compenso a forfè, che a mio parere non dovrebbero essere tolte, perché il patto di quota lite è un qualche cosa che ha fatto molto bene agli studi, qualcuno dice può andare contro l'interesse del consumatore, ma basta inserire dei limiti del 30% nel compenso a forfè. Compenso a forfè, giusto per farle capire quello di cui stiamo parlando, è il compenso che viene dato all'avvocato solo ed esclusivamente se raggiunge un determinato risultato, e questo andrebbe tolto, secondo me sarebbe un grosso errore che danneggerebbe tra l'altro. Anche se io devo dire, tra gli SMS ci sono molti, c'è parecchi tra piccoli imprenditori, così si dichiarano mandando gli SMS, che dicono: io mi sono stufato di pagare avvocati che non ottengono niente, sarei per il principio che una parte della remunerazione deve essere commisurata anche ai risultati ottenuti. Può essere discutibile ovviamente rispetto a come può andare poi la decisione in giudizio, però questa istanza c'è nel mondo delle imprese. Da questo punto di vista abbiamo anche una telefonata, purtroppo ne possiamo mandare in onda credo solo più una. Marco da Bergamo, prego Marco. Allora, buongiorno. Innanzitutto le faccio i complimenti perché si è dimostrato lei personalmente una persona molto liberale ultimamente. Su questo tema voglio dire questo: io sono un piccolo imprenditore e usiamo ormai a tutto campo avvocati, consulenti, commercialisti, assistenti sul problema del lavoro, e c'è un problema di qualità enorme nel contributo che danno questi professionisti alle piccole imprese, perché ci attestano sempre su servizi che più delle volte sono minimali rispetto alle necessità dell'impresa e servono solo a garantire che attraverso una certificazione o una dichiarazione non si incappi nelle multe o in infrazioni alle leggi. Cioè la sua esperienza è che sono titolari di una competenza soprattutto su proceduralità standard, piuttosto che essere in onda e coerente all'evoluzione delle diverse forme di consulenza che servono davvero a un'impresa per stare sul mercato, se ho capito bene. Esattamente, e soprattutto invece che far fare passi in avanti alle piccole imprese, che ormai sono dei piccoli mondi che non hanno alternative a usare queste professionalità esterne, invece che far fare passi in avanti, li cristallizza in una situazione insostenibile. Non abbiamo l'apporto che meriteremmo, di cui abbiamo bisogno. Grazie a Marco da Bergamo. Io penso che sia fondamentale tenere conto di ciò che poi le piccole imprese, soprattutto le grandi, possono pagarsi grandissimi studi, chiedono al mondo delle professioni, perché il problema è quello di una maggiore funzionalità, efficienza, una maggiore produttività di tutto il mondo dei servizi nel nostro paese. Avvocato De Nicola, c'è come ci fosse una specie di contraddizione. Da una parte Alpa ci ricorda: ma noi non siamo un paese col numero chiuso, siamo un paese col libero accesso, per questo ci siamo tantissimi avvocati, e allora per quello bisogna avere norme deontologiche, norme anche tariffarie, norme sulla concorrenza un pochino più chiuse che di paesi che in realtà sono molto più protesi alla concorrenza ma praticano la restrizione nell'accesso alla professione, come in Gran Bretagna. Come si risolve questa apparente contraddizione? Le norme deontologiche sono d'accordo, gli avvocati devono comportarsi bene, anzi gli ordini dovrebbero avere nelle commissioni giudicanti molti più non avvocati per giudicare il comportamento disciplinare degli avvocati, su quello sono d'accordissimo. Però qui abbiamo, non delle ideologie, dei fatti, abbiamo una controriforma in cui tutti i consumatori sono contrari, tutti, e solo alcuni produttori sono a favore, perché non tutti gli avvocati sono a favore, i commercialisti ad esempio non sentono alcuna necessità della tariffa minima. Quindi proprio questa è la situazione. Quando è che intervengono gli ordini? Intervengono contro quelli che danno i servizi ai deboli. Gli unici due interventi degni di nota sono quelli dell'ordine di Monza, che si è scagliato contro avvocati Point che offriva separazioni a 620 euro, quindi venendo incontro alle fasce di popolazione povere. Le separazioni costano, loro danno un servizio standardizzato, ti diamo 620 euro. E l'altro, l'ordine di Brescia contro ALT, è un caso che è andato all'antitrust, che offriva servizi standard con un negozio sostanzialmente su strada e che dava anche questo servizi bassi. Quindi gli ordini, quando difendono la famosa dignità, difendono la dignità quando si danno servizi bassi a chi ne ha più bisogno. Altra cosa, l'accesso, se noi vediamo i mercati dove la professione legale è più sviluppata e dà più ricchezza al PIL, quindi la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, perché noi dobbiamo per forza imitare la Gran Bretagna, anche in Gran Bretagna fanno delle fesserie, però vediamo sempre i dati. I paesi dove gli avvocati creano più ricchezza sono Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, dove tariffe minime non ce ne sono. È possibile la partnership, cioè l'associazione professionale a responsabilità limitata. In Australia già gli studi di avvocati possono quotarsi in borsa e in Inghilterra lo faranno. E questo è razionale, perché non si capisce perché non ci possono avere i soci finanziatori. Perché uno studio dovrebbe essere schiavo della banca che gli fa il prestito e non di un socio finanziatore almeno si sceglie lui? Ma qual è la differenza? Cioè, è meglio essere schiavo del prestito che ti fai con la banca o del socio finanziatore che almeno ti sceglie? Io la devo interrompere nel dire che alla fine della trasmissione io sono stato molto equilibrato, ho difeso il pieno diritto di Alpa, gli abbiamo chiesto di rappresentare qui oltretutto le posizioni del Consiglio Nazionale Forense. Credo che il governo sia davvero intenzionato, non tanto nella fase degli statuti generali, federali, ma quanto poi nel disegno di legge di riforma della professione forense in Senato a recepire molte delle richieste che il presidente Alpa ci ha illustrato. Io personalmente la penso come il professor Schivardi e l'avvocato De Nicola hanno detto, come Cristiano, come noto, l'avvocato appunto promotore del primo studio legale sui stati d'Italia, ci ha ricordato. Io sono contrario alle guerre di religione, non mi interessa Bersani fosse di qua o di là, quella è un'apertura che io difendo per gli effetti che ha provocato nel mercato e soprattutto per servizi anche a tipi di clienti che possono pagare di meno. E penso che un'Italia che si divida tribalmente dicendo se di Bersani è sbagliato e se invece di centrodestra è giusto a prescindere dal contenuto sia un'Italia come al solito tribale. Penso però che dovremo fare i conti con una riforma in cui la professione forense riuscirà a riportare un pochino le lancette indietro. Speriamo che il presidente dell'antitrust, che ha pronunciato parole molto nette contrarie, interpreti anche le opinioni di chi come noi pensa che più concorrenza e più libertà e meno ingessamenti dagli ordini e dagli albi siano il futuro per far crescere la produttività italiana, altrimenti le generazioni successive hai voglia. Questa è la mia personalissima opinione. Ringrazio tutti, Filippo Aureggio in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione. La linea al Giornale Radio, appuntamento a domani come sempre.